una ragazza che ha tutto, vuole solo svago, divertimento, ci basta un po' di trucco, inganni tutti, per il resto anche brutti, basta che tutto questo ti va. È come film, la protagonista è Lucy, luci rosse la notte, di giorno per la principessa ti mancano solo le carrozze, ti vendi per i cash, guardo te mi sembra di stare ad Amsterdam e la gente ci stufa, splash, in fondo sei brava, è per questo che ho scritto questo pezzo e lo so che non spaccherà, ma a me piace scrivere la verità, lo so che appena lo senti qualcosa cambierà, come la penso io vivo con la realtà. Mandi a far culo tuo padre, hai tradito tua madre, hai perso i sentimenti come la verginità, sei persa del tutto, cerchi la felicità, ma hai bisogno di aiuto e ti fai pagare per la tua femminilità. Faccio ciò che voglio, arrivarci abbandonando l'orgoglio. Ora che ti voglio, sai come la penso io. Faccio ciò che voglio senza un io. Faccio ciò che voglio, arrivarci abbandonando l'orgoglio. Ora che ti voglio, sai come la penso io. Faccio ciò che voglio senza un io. Io penso che tutto questo non ha senso, perché non abbiamo futuro, io non sono il prescelto. Rimango digiuno perché ho cacciato fuori tutto il mio affetto. Noi pensiamo di essere speciali, vogliamo lo stesso anche senza ali, sorseggiando l'amaretto. Ci siamo tenuti stretti, stretti petto a petto. Ora siamo lontani e io sembro un bravo ragazzo, un chirichetto, invece pieno di peccati e non mi vanto per questo. La fortuna l'ho ceduta per avere te in questo momento, per vivere il bene presente, sperando in un futuro ed essere più contento. Finisce che ci rimango se non sto attento, una pietra sopra, un sorriso falso e mi rifugo sopra un tetto. Faccio ciò che voglio, arrivarci abbandonando l'orgoglio. Ora che ti voglio, sai come la penso io. Faccio ciò che voglio senza un io. Faccio ciò che voglio, arrivarci abbandonando l'orgoglio. Ora che ti voglio, sai come la penso io. Faccio ciò che voglio senza scopi, senza un io.